TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Appaiono serie le condizioni di due dei cinque intossicati nell'incendio sviluppatosi in un appartamento a Morsano al Tagliamento nella notte. A scatenare l'incendio, un probabile guasto elettrico. Convocati in regione i vertici di SNAI e i sindacati per trovare una soluzione alternativa alla chiusura del reparto verniciatura dell'azienda friulana. Si discute da quasi tre ore. Il costo della vita è in aumento, i prezzi di cibo e bevande sono cresciuti dell'oltre 2% in un anno. Nel fine settimana svolta meteo con bora forte la domenica, mentre in montagna a Tarvisio sulle gare di Coppa del Mondo di sci femminile insisteranno ancora le nubi basse. Il trasporto marittimo urbano con la linea Muggia-Trieste si consolida e nel 2025 segna il record di oltre 180.000 passeggeri trasportati. Importante per il risultato il potenziamento della linea nelle ore serali d'estate e l'aumentata capienza della motonave in servizio. Buongiorno da Maria Spezia e Nada Ciocchi. In apertura la cronaca: incendio nella notte in un'abitazione a Morsano al Tagliamento con quattro intossicati, di cui due in condizioni serie. All'origine del rogo si ipotizza un guasto elettrico, ma sentiamo i dettagli nel servizio. Stavo dormendo, noi sentivamo le urle di questa signora qua, no? Che mi avvicina a casa, che abita nel piano sopra. Notte di paura in un abitato ater di via Comugna, Morsano al Tagliamento, a causa di un incendio per un guasto elettrico nell'abitazione di una donna di 68 anni. Provvidenziale l'intervento di un inquilino, Flavio Munos, operaio in una ditta del posto, che ha messo in salvo tutti prima dell'arrivo dei soccorsi. Mi sono affacciato sulla finestra e io ho visto la signora che chiedeva aiuto, fuoco, e lì ho visto. In pratica mi ha fatto tutto il giro e sono entrato a casa sua. Per fortuna lei aveva la porta aperta, no? Io mi ho trovato con tutto questo fumo, io era tutto nero. La signora era intrappolata, diciamo, sul balcone, no? E pian piano, no, sono riuscito a spegnere il fuoco con un secchio che avevo qua, perché aspettavamo, diciamo, i pompieri. Quando sono arrivati loro, in pratica era quasi già spento. Cinque persone sono rimaste intossicate, accompagnate in ospedale. La sindaca Elena Maiolla. La situazione inizialmente sembrava grave, in realtà adesso è sotto controllo. C'è solo attualmente una signora ricoverata, ma non è in gravi condizioni. Sarà dimessa oggi e tramite l'amministratrice di sostegno sappiamo che poi andrà per alcuni giorni, insomma, dalla figlia, perché la sua casa in questo momento è sotto sequestro. E per questo concittadino di adozione, che veramente ha fatto un gesto di grande coraggio e solidarietà, se vuole spendere due parole, sindaco. Sono veramente una famiglia di ragazzi bravissimi, sono inseriti benissimo a Morsano, e io veramente li ringrazio, perché sono state persone pronte ad agire per il prossimo, nonostante appunto anche i bambini in casa. Morsano al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. In regione si è appena concluso il confronto a cui hanno partecipato sindacati e vertici della Snaidero per salvare i 33 posti del reparto verniciatura. È iniziato alle 10 del mattino a Trieste, a Palazzo della Giunta, in Piazza Unità, il tavolo regionale sulla crisi di Snaidero, storica azienda friulana delle cucine di alta gamma, fondata 80 anni fa a Maiano. Al centro del confronto la chiusura del reparto verniciatura, che impiegava 28 lavoratori e che l'azienda intende esternalizzare, e poi la mancanza di un piano industriale dettagliato in una fase di mercato che resta difficile. Al tavolo siedono gli assessori regionali Bini e Rosolen, l'amministratore delegato Alessandro Trivillini, il presidente Edi Snaidero, i rappresentanti sindacali e Confindustria Udine. I sindacati ricordano che in 7 anni sono usciti circa 100 lavoratori e sottolineano l'urgenza di una soluzione, visto che il contratto di solidarietà, che coinvolge tutti i 260 dipendenti, scade nei prossimi giorni, all'inizio di febbraio. L'azienda, che registra un fatturato annuo di circa 105 milioni di euro, ha indicato come obiettivo il raddoppio dei ricavi, mentre una parte significativa del capitale è oggi in mano a soggetti pubblici e a fondi di investimento, il 49% del capitale. Il confronto è ancora in corso e dovrebbe entrare nel merito delle prospettive industriali e occupazionali del sito di Maiano. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Inflazione sostanzialmente stabile in Friuli Venezia Giulia, ma continua la crescita del costo del carrello della spesa. Non si arresta la corsa al rialzo dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche, una tendenza consolidata ormai da anni sulla voce del paniere dell'inflazione che più incide sulla vita quotidiana. Secondo gli uffici statistica dei comuni di Trieste e Udine, città campione in regione, il carrello della spesa è aumentato in un anno rispettivamente del 2,3% e del 2%. Dal fronte delle spese per abitazione, acqua, elettricità e combustibili, per capirci quello delle bollette, invece arriva una buona notizia: i costi in un anno sono diminuiti in media dell'1,9% a Trieste e del 2,4% a Udine. Complessivamente il tasso di inflazione annuo si attesta a Trieste sull'1,3%, in leggero aumento rispetto al mese precedente, a Udine il dato è stabile all'1,6%. La voce che in entrambi i comuni fa segnare i maggiori aumenti percentuali è quella dei servizi ricettivi e di ristorazione, cresciuti del 5,3% a Trieste e del 6,5% a Udine, mentre il singolo settore che ha fatto segnare gli aumenti più alti è quello della gioielleria ed orologeria, con prezzi che in un anno sono cresciuti del 20% a Trieste e del 26% a Udine, effetto inevitabile dell'aumento del prezzo dell'oro pari a circa il 50% in un anno. Andrea Bardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. La nuova legge regionale sui carburanti agevolati introduce dal 1 febbraio il nuovo sistema con una app dedicata. Le tessere con il chip si potranno comunque ancora usare fino al 31 dicembre dell'anno in corso, ma sarà possibile anche stampare il codice QR. La gestione del sistema passa dalle Camere di Commercio alla Regione. Partito con i migliori presupposti, il disegno di legge sui carburanti si è rivelato una norma deludente, non condivisa, che non aiuta i cittadini. Lo afferma in una nota il consigliere regionale del PD, Andrea Carli. Sono le 12.37, passiamo al meteo, il cielo è da nuvoloso coperto in pianura e sulla costa, sereno e montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste, Gorizia e Pordenone 9 gradi, a Udine 10, in area montana, Tolmezzo e Forni di Sopra 5 gradi, Tarvisio 3, Piancavallo 1,5 gradi, a Sappada 1,5 gradi sotto lo zero, in quota su Monte Lussario 1 grado, sul Monte Zoncolan 1,5 gradi, sulla costa a Grado Lignano 8 gradi. E per le previsioni meteo del fine settimana abbiamo parlato con Marcellino Salvador, esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. Ma nel fine settimana ci sarà un cambiamento nel tempo, dalle correnti umide che portano appunto nubi basse, foschie, ci sono state anche delle piovigini come oggi e come ieri, si passa a un regime in cui prevale la bora, da cui un cielo che diventa più sereno su pianure costa, quindi nel weekend sarà in genere poco nuvoloso e più variabile, mentre sui monti prevarrà in genere nuvolosità, più probabilmente sulle Alpi Giulie, e con temperature che diminuiranno in montagna. Invece su pianura e costa domani massime intorno ai 12-13 gradi in pianura, intorno ai 10 lungo la costa dove appunto soffia bora. Domenica cala di qualche grado la temperatura, rimane la bora sulla costa che soffierà sostenuta ma non oltre gli 80 km orari. E poi la prossima settimana inizia con cielo sereno su tutte le zone e continua la bora sulla costa per diversi giorni, che manterrà l'aria secca, quindi siamo diciamo protetti dal rischio di nebbie e foschie e avremo delle giornate secche con l'aria appunto decisamente tersa su tutta la regione. Per quanto riguarda le temperature, quindi ci sarà una diminuzione, sarà in linea con la media del periodo? La giornata di domani vedrà ancora temperatura al di sopra della norma del periodo, specialmente nel pomeriggio in pianura. Dopodiché direi che da domenica tenderanno a scendere in maniera un po' più decisa e ovviamente le massime saranno più basse sulla costa dove domina la bora rispetto alla zona di pianura dove invece la bora sarà più moderata. Si allineeranno direi con la norma del periodo. Però appunto domani è una fase in cui pianura fa relativamente caldo, avremo 12-13 gradi nel pomeriggio di domani in pianura. Parliamo ancora di ambiente, in Friuli ci sono diverse discariche chiuse, siamo andati a vedere che cosa ne è del materiale lì raccolto. Discariche abbandonate da decenni, ex capannoni industriali pieni di rifiuti, comuni che si fanno carico dei costi di bonifiche per centinaia di migliaia di euro, iter giudiziari infiniti tra fallimenti privati e ordinanze non rispettate. Il nostro viaggio in questo mondo inizia da Aiello del Friuli, da un'ex fabbrica di sedie distrutta da un incendio 12 anni fa. A suo tempo un'ordinanza di ripristino è rimasta lettera morta, ci dice il sindaco Roberto Festa. Si spera che la nuova proprietà milanese abbia interesse a riqualificare l'area in termini residenziali. i piccoli comuni da soli non possono acquisire o gestire beni del genere. Anche a Duttano, sempre in comune di Aiello, un'altra ex fabbrica di sedie è chiusa nel 2005. Una situazione sotto l'attenzione di varie procure, 4 fallimenti, una causa persa contro l'ex curatela per lo sgombero dei rifiuti al suo interno. Servono almeno 800.000 euro. Per fortuna ha acquisito un privato l'anno scorso. Ci vorranno 3 anni per smaltire il tutto e insediarvi una carpenteria. Meglio che facciamo noi, invece di aspettare i vari enti pubblici, passerebbero 30 anni altrimenti, ci dice il nuovo proprietario Mattia Fabris. A Manzano, in un capannone della zona industriale, stoccati migliaia di sacchi di materiale plastico macinato. Nel 2020 un primo sequestro dei carabinieri del NOE, poi il dissequestro, poi di nuovo i sigilli nel 2023. Ordinanza urgente di sgombero del comune, proprietario e gestore si appellano, ora la vicenda è al Consiglio di Stato. In parallelo un processo in corso per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. In mezzo il municipio. C'è preoccupazione per quanto riguarda la prevenzione incendi, dice l'assessore all'ambiente locale Lorenzo Alessio. La nostra inchiesta proseguirà all'ex cascamificio di Remanzacco. Dopo il sequestro del capannone di Manzano era stata stoccata anche qui la merce in attesa della vendita. E poi faremo tappa a San Giovanni al Latisone, un ex discarica voluto dalla provincia nel 92, chiusa nel 2003, un privato che fallisce, il comune che aspetta ancora 950.000 euro da una compagnia assicuratrice dopo 15 anni di battaglie legali, vinte in Cassazione, ma nel frattempo ha dovuto spendere 400.000 euro per le bonifiche del percolato. La regione potrebbe venire in aiuto con un finanziamento, come per un capannone a Savogna di Isonzo, dove lo smaltimento dei rifiuti potrebbe costare fino a 5 milioni di euro. Soldi pubblici per risanare danni fatti da privati, commenta Marino Visentini, referente dell'Osservatorio Civico contro l'illegalità, in un settore, quello dei rifiuti, che rende molto. Aiello del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Udine la riqualificazione del quartiere di San Domenico procede come da programma. Procedono in linea con il cronoprogramma i lavori del cantiere Pinqua nel quartiere di San Domenico, uno dei principali interventi di rigenerazione urbana finanziati nella città di Udine. Oggi il sindaco, accompagnato dall'assessore alle politiche abitative per l'edilizia sociale Andrea Zini, si è recato nel cantiere per una visita di aggiornamento sui lavori. Al ritmo attuale gli appartamenti saranno pronti entro la primavera del 2026 nel rispetto delle tempistiche del PNRR. Allo stato attuale l'edificio si presenta in fase avanzata di ultimazione esterna. Per quanto riguarda gli interni, alcuni alloggi al terzo piano risultano già completati anche dal punto di vista edile. Le lavorazioni procedono ai piani sottostanti con l'ultimazione degli appartamenti e degli spazi comuni. Ogni giorno all'interno del cantiere operano mediamente oltre 40 addetti tra impiantisti, cartongessisti, pittori edili e piastrellisti. Gli spazi al piano terra sono destinati a ospitare la nuova biblioteca di quartiere, negli obiettivi un nuovo presidio culturale e sociale per San Domenico e per l'area ovest della città. Il nuovo complesso, che si sviluppa su 4 piani fuori terra, ospiterà complessivamente 73 appartamenti di diversa tipologia, pensati per rispondere in modo equilibrato alle esigenze delle famiglie e dei nuclei di diversa composizione. La maggior parte degli appartamenti sarà gestita direttamente da ATER, mentre al piano terra, oltre alla biblioteca e alla sala polifunzionale, sono previsti spazi di social housing. Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il porto di Trieste nel settore container ha sofferto nell'anno che si è appena chiuso dalla fine dell'alleanza MSC-Maersk. Intanto è notizia di questi giorni che proprio MSC potenzia le proprie rotte su Trieste da aprile. Le 5 portacontainer MSC in arrivo al porto di Trieste tra gennaio e febbraio sono soltanto un antipasto. Da aprile, infatti, il terminal container del Molo Settimo sarà una tappa fissa del servizio Dragon del colosso della logistica, che collega stabilmente l'Asia, l'Europa e la costa orientale degli Stati Uniti. Il capoluogo regionale sarà il primo porto toccato dopo quello di Singapore e il primo scalo della linea nel Mediterraneo, cosa che rafforza il ruolo dello scalo giuliano sulle principali rotte intercontinentali. Da Trieste, le navi del servizio, con capacità comprese tra 15 e 19.000 TEU, la misura di lunghezza nel trasporto container, ripartiranno non in direzione Asia ma verso il resto del Mediterraneo e poi per il Nord America. Per le aziende del Nord Europa e dell'Europa centrale che utilizzano il porto di Trieste si aprirà dunque un'opportunità di export diretto negli Stati Uniti senza scali intermedi. Per lo scalo regionale, invece, dice il presidente del porto, Marco Consalvo, l'inclusione di Trieste in questo servizio va in direzione del recupero dei traffici persi l'anno scorso, che si era chiuso con un meno 19%. 9% proprio nel settore dei container, soprattutto in seguito alla decisione dell'altro gigante dei trasporti marittimi, Maersk, di lasciare il Molo Settimo e spostare le sue attività a Fiume. Ora, è il ragionamento di Consalvo, questa è una svolta rilevante che ci consente di pensare a una forte crescita dei TEU nel 2026. Il compito dell'autorità portuale, conclude il Presidente, è quello di rafforzare la logistica per essere pronti a far parte di questa grande rete. Trieste, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. La linea marittima Trieste-Muggia ormai è un collegamento consolidato che sempre più muggesani e triestini considerano come soluzione alla mobilità. Nel 2025 la linea operata dal Delfino Verde all'interno delle linee del trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia ha registrato 183.000 passeggeri, con un risultato mai raggiunto in precedenza che ha fatto segnare una crescita del 18% rispetto al 2024. I mesi di maggiore affluenza sono stati luglio-agosto, ma gli aumenti più alti in termini percentuali si sono registrati da settembre a dicembre, con il 43% di passeggeri in più. L'anno passato sono state introdotte alcune novità, a iniziare dalla nuova motonave che apre il servizio con una portata aumentata fino a 330 persone e l'attivazione delle corse serali da metà giugno fino a metà ottobre. Circa 700.000 le persone che hanno scelto Lignano-Sabbiadoro come meta per una gita o una breve vacanza durante le settimane di programmazione di Natale da mare, confermando Lignano come una delle mete di riferimento per il turismo invernale dell'Alto Adriatico. Il dato emerge da proiezioni statistiche elaborate attraverso l'analisi delle celle telefoniche e il rilevamento delle targhe ai varchi di accesso alla città. Nel periodo analizzato, la media delle presenze giornaliere è risultata costantemente superiore alle 20.000 unità, con un picco domenica 28 dicembre, quando Lignano ha accolto quasi 30.000 visitatori. Quinta edizione per il premio Leali Young in memoria di Cristina Visentini, concorso per aspiranti giornalisti tra i 18 e i 35 anni, inteso a incentivare l'attività giornalistica e promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro. I componimenti dei candidati saranno esaminati da un comitato scientifico formato da giornalisti e operatori dell'informazione e i vincitori saranno premiati con un riconoscimento di 2.500 euro nel corso dell'inaugurazione della 12ª edizione del Festival del Giornalismo, in programma dal 9 al 14 giugno. A Luca Perrino, presidente dell'associazione culturale promotrice Leali delle Notizie, abbiamo chiesto quali siano le novità di questa edizione del premio. Le novità sono quelle che il premio è riservato ai giovani dai 18 ai 35 anni, ma che siano anche iscritti all'elenco dei giornalisti, solamente pubblicisti, praticanti o che frequentino le scuole di giornalismo. Quali sono le difficoltà che questi giovani incontrano a cui voi volete venire incontro? Le difficoltà sono moltissime, perché il mestiere di giornalista oggi come oggi non ha più l'appeal di un tempo, ma noi lo stesso con questo premio li vogliamo invogliare a coltivare un sogno e a coltivare questa loro aspirazione. Tra le sfide del precariato e quelle di portare avanti una professione che può essere svolta in tanti modi, ma è sempre più difficile, come riuscite a incitare questi giovani? Riusciamo a farlo innanzitutto dando a loro una speranza, che è una speranza tangibile anche non solo per il premio economico, ma anche per la possibilità di vivere una settimana con noi al Festival del Giornalismo e trovare sul campo quello che vuol dire fare il giornalista. Li incitiamo poi perché, come ho detto prima, un sogno va coltivato, nonostante le difficoltà. Ecco, il precariato è un tema che a noi sta molto a cuore e speriamo che e le rassicurazioni del governo vadano veramente verso una soluzione di questo gravoso problema che purtroppo è stato dimenticato per molti anni. Una nuova associazione di giovani nasce a Trieste all'obiettivo di riportare il pensiero critico, la storia e l'arte al centro del dibattito, parlando il linguaggio delle nuove generazioni. Si chiama Hortus Mentis ed è fondata da 18enni del quinto anno delle scuole superiori triestine. L'iniziativa intende creare uno spazio libero e condiviso in cui il pensiero possa essere coltivato, discusso e messo alla prova, così come suggerito dal nome dell'associazione, per contribuire immaginare e costruire un futuro migliore. Sarà presentata a Trieste al Museo Sartorio alle 15. Prima iniziativa in calendario di Hortus Mentis, un ciclo di incontri dedicato al tema della felicità. Inaugurazione domani alle 11, sempre al Museo Sartorio. Si avverrà di un organico di studenti triestini, goriziani e lubianesi il concerto scenico Slato Rog, capolavoro del compositore triestino Victor Parma, tratto dall'opera del triestino d'adozione Rudolf Baumbach, che sarà allestito al Teatro Verdi di Trieste con il coinvolgimento di un centinaio tra orchestrali, cori e solisti che presteranno la propria opera a titolo volontario. Il progetto, ideato e promosso dal Circolo della Stampa di Trieste, è stato presentato questa mattina nella sede in Corso Italia. Ne abbiamo parlato con il vicepresidente Luciano Santin. È un'opera ambientata nell'altissima valle di Lisonzo che intreccia leggende slovene con una tragica storia d'amore. Sulla base dell'omonimo poema tedesco, anch'esso scritto qui a Trieste da un poeta turingio adottato dalla città, Rudolf Baumbach, anche lui piuttosto dimenticato perché non italiano, è nata l'opera lirica Slato Rog, composta negli anni della Grande Guerra. Per realizzarla in forma di concerto scenico abbiamo messo in campo risorse studentesche. C'è l'Accademia di Musica dell'Università di Lubiana, il Centro per l'Educazione Musicale Comel di Gorizia, la Glasbo in Amatica, 100 persone circa, comunque ragazzi di Italia e Slovenia, che suoneranno e canteranno a titolo gratuito. L'evento, che ha il sostegno della Regione, della Fondazione CRT e della Fondazione Poloiac, avrà luogo al Teatro Verdi di Trieste il 9 febbraio alle 20.30 a ingresso libero. Qual era il messaggio che volevate trasmettere con la rappresentazione di questo lavoro, peraltro mai rappresentato a Trieste? Il messaggio è quello del recupero di una tessera di quel policromo mosaico che era la cultura triestina, che poi è stato completamente sporcato, nascosto, cancellato. Tessere sono state strappate. Siamo allo Sporci Alpino, nella seconda sessione di prove cronometrate della discesa libera di Tarvisio. L'italiana Nicole Del Lago ha fatto registrare il miglior tempo con 4 centesimi di margine sull'austriaca Nina Ortlieb, risultata prima ieri. Quarto posto per Nadia Del Lago. Le favorite non hanno spinto al massimo. Nono posto per la statunitense Lindsay Vonn, 16ª Sofia Goggia. Le prove sono state interrotte per una ventina di minuti, poco prima di mezzogiorno, per un incidente. Occorso un addetto della pista. Per soccorrerlo è stato fatto intervenire l'elicottero, come prevedono le regole per la Coppa del Mondo. La gara si disputerà domani con partenza alle 10.45. Sarà l'arbitro Marco Di Bello a dirigere la partita di calcio Udinese-Inter, valida per la 21ª giornata di Serie A, e in programma domani alle 15 allo stadio Friuli di Udine, in cui si celebreranno anche i 10 anni del rinnovato stadio. Qualche appuntamento unisce narrazione e musica per raccontare il Friuli del XIII secolo. Lo spettacolo Nine, con protagonisti il musicista Alessandro Pozzetto e il pianista Nico Dorico, al Teatro della Corte di Osopo alle 20.30, ingresso libero. Eugenio Mazza, musicista e compositore milanese, si esibirà nel suo progetto solista intitolato Pavor Nocturnus a Trieste, allo spazio underground del cinema Ariston alle 22, con ingresso gratuito. Il primo appuntamento del ciclo concerto Torriani proporrà un viaggio nel melodramma con composizioni di Donizetti, Bottesini, Bizet e Rossini, eseguite da Toni Chessa al flauto, Antonio Puglia al clarinetto e Mariano Meloni al pianoforte, a Udine, alla Torre di Santa Maria alle 17. E con questo appuntamento chiudiamo il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Samantha Gonda. Tutti noi l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.